Un benessere medio con la pace del cuore vale più dell'opulenza con l'inquietudine. Se la donna ti ama, ti si apriranno davanti tante porte, ma se ti detesta, con un filo di ragno alzerà davanti a te una muraglia di ferro. Chi prende una donna per la sua bellezza sarà ingannato. Chi la sposa a causa della sua fortuna è un avido, ma colui che la sceglie per il suo buon senso può dire che è ben sposato. Preoccupati per la tua vita terrena come se tu non dovessi mai morire, e per la tua vita ultraterrena come se dovessi morire domani. Non sempre l'uomo può avere ciò che desidera, come la nave che non può sempre avere il vento in poppa. Con il fuoco si prova l'oro e con l'oro si prova l'uomo. Le persone che ci diffamano pagano a noi un tributo perché trasferiscono a nostro credito le loro buone azioni. Chi commercia con capitali altrui è destinato al fallimento. Chi chiede perdono ad Allah l'Altissimo ma resta attaccato alla colpa, Allah lo priva del pentimento e del ricorso a Lui. Chi preferisce la compagnia dei ricchi a quella dei poveri è punito da Allah con la morte del cuore. Chi desidera la fama tra gli uomini è obbligato a compiacerli in cose che offendono Allah. Quando un uomo eccede nella cura del suo aspetto esteriore, è molto probabile che il suo intimo sia uno squallore. L'abbondanza della scienza in un uomo malvagio è come abbondanza d'acqua alle radici della coloquintide, il frutto della quale, di quanto più essa è annaffiata, di tanto diventa più amaro. Chi osserva la condotta dei predicatori perde il beneficio delle loro parole. O figlio di Adamo, tu non sei giusto. Il propagandista della vita mondana ti invita con una sola parola a cose sordide e passeggere, e tu gli dai retta per mille giornate. Il missionario della vita futura ti invita per mille giorni a cose durevoli e sicure, e tu non gli dai retta neppure un giorno. Le ricchezze di questo mondo sono carogne, per cui chi ne desidera una parte sopporti la compagnia dei cani. Il vero dottore della religione è colui che, con i suoi consigli, impedisce agli uomini di disperare della misericordia di Allah, che non permette loro di sentirsi al sicuro dai castighi di Allah, che non tollera la loro ribellione ad Allah e non recita il sublime Corano per interesse. L'ignorante non deve vergognarsi di ciò che non sa, e il dotto, interrogato su cose che non conosce, deve dire: Allah è più informato, Allahu a'lam. Benefica qualcuno e sarai suo padrone, fa a meno di lui e sarai suo uguale, abbi bisogno di lui e sarai suo prigioniero. Il credente ha raggiunto il vertice quando preferisce la povertà alla ricchezza, l'anonimato alla celebrità e quando lodi e biasimi gli sono egualmente indifferenti. Chi va dal potente con la sua religione ne esce senza, perché viene incoraggiato a ribellarsi ad Allah con le azioni, con le opinioni o col silenzio. Se tu critichi gli uomini, essi ti criticheranno. Se tu li abbandoni, ti abbandoneranno. Se tu li fuggi, ti raggiungeranno. Ci sono tre tipi di malattia: castigo, penitenza, elevazione. È castigo se l'ammalato la subisce con ira. È penitenza se vi si rassegna. È elevazione se la riceve con gioia. Studia, e se non riesci a tenere in mente ciò che hai studiato, scrivi e conserva in casa quello che hai scritto. Al credente che ordina il bene e proibisce il male non resta nemmeno un amico, perché ogni volta che comanda il bene viene attaccato nell'onore e accusato di ogni vituperio. Prendi come guanciale la morte quando vai a dormire e tienila sempre davanti agli occhi quando sei sveglio. Sii tu l'ammonitore di te stesso, altrimenti andrai di sicuro in perdizione. Tutto quello che non tende ad Allah si disfa come una nuvola. Se viene in tuo figlio una cosa che ti dispiace, sappi che viene da te ed emendati. Il mondo è una bestia da soma. Se lo cavalchi ti porta, se ti fai cavalcare da lui ti ammazza. Una delle condizioni dell'umiltà è che tu esca di casa e tutti quelli che incontri li consideri migliori di te. Tutti gli uomini operano sotto l'ala di Allah l'Altissimo, e quando Allah vuole svergognare un suo servo, lo spelle da sotto la sua ala e le magagne di quel servo diventano palesi. Non c'è nessuno senza difetti, ma non bisogna far caso ai difetti di chi possiede virtù di gran lunga superiori. Quando la superbia entra nel cuore di un uomo, la sua intelligenza diminuisce nella stessa misura o di più ancora. Chi ha delle difficoltà a trovare sostentamento, chieda molte volte perdono ad Allah per i suoi peccati. L'uomo nobile non trascura per superbia quattro cose: alzarsi in piedi davanti al padre e cedergli il posto, servire l'ospite, aiutare l'ospite a salire in sella anche se ha 100 schiavi, servire chi è stato suo maestro. Il beneficio non è completo se chi lo compie non osserva tre condizioni: diminuirgli importanza, tenerlo segreto e farlo subito. Quando vieni a sapere di tuo fratello una cosa che ti dispiace, cercagli giustificazioni da 1 a 70. E se non trovi per lui nessuna giustificazione, allora di: forse c'è per lui una scusa che io non conosco. I più colpevoli tra gli uomini sono quelli che più volentieri parlano delle colpe altrui. Comportati nobilmente, usando cortesia anche alle persone di cui non hai bisogno. Chi sospetta se stesso di ipocrisia non è certamente un ipocrita. Non prodigare mai la tua scienza a chi non te la chiede. Chi abbandona la famiglia è come uno schiavo fuggitivo. Allah non accetta le sue preghiere e i suoi digiuni finché non torna a casa. Il miglior atteggiamento del servo verso Allah è l'accettazione del suo decreto. Se Allah vuole che resti al mondo per obbedirlo, preferisce questo. Se lo toglie dal mondo, preferisce che sia così. Spostare le montagne dalle loro basi è più facile che eliminare la passione del comando quando ha messo radici nel cuore. L'eccesso di solitudine dipende da debolezza di fede. Se vedi che tuo fratello desidera vivamente primeggiare, allora abbandonalo. Quando avrai veramente conosciuto te stesso, quello che gli altri dicono di te non ti darà più fastidio. Il vero amico è quello che accetta le scuse, provvede ai bisogni, perdona le mancanze, è quello che diventa l'amico dell'amico del proprio amico. Nessuna gioia è pari alla compagnia degli amici e nessuna pena alla loro separazione. Non fare torto all'amico speculando sulla sua bontà. Chi ti benefica ti lega e chi ti maltratta ti libera. Chi fa maldicenze con te farà maldicenze contro di te. Chi, quando è soddisfatto di te, ti loda per qualità che non hai, ti attribuirà difetti che non hai quando è in collera con te. L'essere troppo cordiali attira cattivi compagni e l'essere troppo freddi procura nemici. Il vostro contegno tenga quindi il giusto mezzo tra il primo modo di essere e il secondo. Chi ammonisce un fratello in segreto lo edifica e lo migliora. Chi lo ammonisce in pubblico lo offende e lo svergogna. Chi nasconde il suo segreto è padrone della propria sorte. Commette torto grandissimo a se stesso chi si umilia di fronte a chi non rispetta, cerca l'amicizia degli altri senza far loro del bene e gradisce le lodi di chi non lo conosce. Chi desidera essere trattato bene abbia buona opinione degli altri. Studia prima di salire al potere, perché quando ci sarai arrivato non avrai più tempo per studiare. Chi desidera che Allah gli conceda la luce del cuore deve stare in solitudine, mangiare poco, abbandonare la compagnia degli sciocchi e odiare quei dotti che tendono solo al successo mondano. La scienza non consiste nell'abbondanza delle notizie che ci sono state trasmesse, ma è una luce che Allah ha posto nel cuore.